sogno stanotte con te svegliarsi tra le stelle bagnati di luce, noi tra le note dolci di Chopin. Per sempre chiusa dentro al cuore, ricordo infinito, noi tra le note lievi di Chopin. Thank you.